Questo ricorso al TAR contro il regolamento dell'ISVAP effettivamente è stato presentato non solo dall'ABI, quindi dall'Associazione delle Banche Italiane, ma anche dall'Assofin, l'Associazione delle Finanziarie, proprio perché ovviamente sotto l'attenzione e sotto i riflettori dell'ISVAP ci sono anche finanziamenti di più piccolo importo che spesso richiedono polizze assicurative allegate. Certo, sì, ormai è una costante, le banche e le finanziarie si tutelano in questa maniera e quindi molto spesso che appunto queste polizze sono strettamente vincolanti per il buon esito della pratica. Di fatto vuol dire che se non si fanno difficilmente si può ottenere il mutuo, soprattutto ora che le banche hanno avuto i problemi che hanno avuto nella concessione di prestiti e di mutui e ben il pianeta America ci insegna, no? Cosa è successo, proprio perdita di lavoro. Sono tutte situazioni della vita in cui effettivamente è importante essere protetti, però è anche importante che la protezione venga realizzata in maniera idonea, anche perché appunto, soprattutto sui prestiti, generalmente le persone che vanno a chiedere un prestito hanno proprio una debolezza contrattuale che li contraddistingue, quindi va bene la protezione, ma non va bene effettivamente, come dice anche l'authority, approfittarne, tanto più che sia un conflitto di interessi notevole, anche perché di solito le compagnie che propongono le polizze sono dello stesso gruppo, per cui di fatto è un giro di commissioni, ecco. Infatti.